marmitta, sì. Cuffo, e attenta, cuffetta. No. Che ci fai sedere? Niente, mi stavo guardando la TV. È vero, a caldo ce n'è, ma tu fa sempre la stai accendendo. Facciamoci, se sta bene la stufa non l'accendo. L'altro giorno l'accesa che c'era un po' di freschetto. Ah, pensavo me. No, e adesso se incomincia al caso, fa qualche giorno brutto, freddo l'accendo, se no no. Ma siamo urati che non accendimmo. No, l'altra sera sul tardi però l'ho accesa, c'era un po' di umidità, l'ho accesa in tre orette, da e buh. Ma penso che il tempo brutto è finito. Guarda, c'è la festa il giorno 5 qua in piazza. Ehi, c'è il 3, il 4 e il 5, già lo so. Ehi, a faccio un po' così di là, uscito a radar. Ai bancarelli e pretendi di dinà dell'offerta. Bizantino non si accontenta, al minimo 200 ne devi di là. Ho capito, a chi? L'altra volta che c'era la festa è andata da una che conosco che aveva la bancarella ed è offerta, no? Gli ha dato l'offerta e l'ha fatto un muzzichino, a chi? Mi pare a poco, mi pare la via a 200 euro, ne voglia di più. Se uno ne vuole di più, ne si travaglia. Infatti chi sa di chi non vi viene in via a farle mancare la notte, quando veda non ne va in piazza, se no non la sa piazza. E mi sa puoi pretendere, se lo fai bene, di più. Non ti pari. Beh, certo. Non ho capito questo cinturo perché cosa ne ha d'arte. Ehi, se hanno fatto il giro delle bancarelle, no, un'offerta per via del cantante che è morto, capito? Però tu accetti l'offerta, noi ti dati l'offerta e fai un mussegnino, Ah, per quello, capito. E allora, e ne vuria di più, ne vuria. Capita, a bravo. La faccia parte ma che di noi si viene a travagliare a battere di naita, ma con la paraguagnate la di i ghivio su 100 euro, infatti non la guagnate, no, o non si va i ghivi che ha guadagnato chi da sopra con la birra e i banini, ma le bancarelle hanno fatto la fame chi si deruto il rone. Non ti sembra? Ho capito, bubù. Ah, io ho visto che la furicchiavano, dai, noi che travagliavano un furicchiavano. Ma quelli col torrone cosa cazzo? Se ha fatto... Mi pare, l'ho preso io, pensiero, l'ho speso. E poi li ha... Ma... Sentuero non è facile. Ti devi vendere un mezzo un poco di torrone e noccioline, se te lo sto dicendo perché li conosco quelli della bancarella, me li hanno detto essi, infatti non è fatti qua a bancarella. Ma chi sono quelli del torrone? Quelli del torrone. Ma chi è quello che ha le file robuste? Ho capito, tatuare uno se la batte in Santo Brito, infatti si mette sempre lì a San Pietro, adesso tutto il mese si fa, tutto il mese Mariano lì fisso e arriva che mi travaglia un poco, a tutte le messe passa gente, c'è più gente e vende, capito? Se non li conviene non si va. Beh, è logico, cosa... Tu ti ha piazzato, ma non ha fatto mai nulla, perlomeno. Chissà, non so, qui non è via fatti, non di mancare da poi, non lo so se ci manda la figlia o i geni, non lo so. E sono di chi si sono lompi, cazzo, con di là, cazzo al regalo, vai a travagliarti di là, o no? beh, certo. Uno si butta la pagliaia, non è che può pretendere. Non l'ho compreso, se no ti vedi che ci metti tardi. Meglio che ci venuta, non te va. Uno l'offerta non la devi pretendere, ti prendi quello che ti danno e gli va sei contento, non ti vale. Giusto. Noi che ci fosse l'offerta è da voi, ma mai Dio ci va a reggi. Ma andate. No, assolutamente no. Infatti vanno nei bigliabili, così impara. Da quella persona che dico io, poi già sono lamentati anche gli altri, ah. Non c'è nessuno, tutti morti sono. Io ho fatto la pasta al forno a pranzo per domani, ci siamo invitati. Ho visto che hai fatto la pasta al forno. C'è andata bene. Mare che non ho venuta, Luca. Vabbè, ci stanno invitando e portiamo quella. Ma che dolce. Se poi passiamo una giornata diversa, là. Siamo giù a Porto Torres. Che andava bene. Dove vedi a Platamona, alla Marina del Sorso, in quella foto che stai bevendo la birra tu e Marina. La Marina era qua. Sei a Camboni, parenti d'Uiso. No, già lo conosco già. A voi ero con noi. No, non è parente mio, magari di lontananza. Ho capito. Beh, sarà di terzo grado. Dice tutto l'anno rimane aperto, tutto l'anno, e lavora. Perché la gente sa che è aperta, o anche l'inverno ci va lì, chiaro grigio, tanto per passarti una serata diversa dagli altri. Uno bosa in macchina, brusia in ferro e se ne andà a mare e si beve qualche cosa te la bevi sempre, no? È meglio, fatti bene. Certo, fa bene sì. E via. E lì ci lavora anche il cugino di Marina. Fa piacere anche che tu vai a farti un giro, pure se sei in inverno. Trovi un locale aperto, no? Non sei contento di aver un locale aperto. Ti puoi bussare, ti mangi, non so, un panino, un tramezzino, una birretta, oppure un caffè, una chiacchieratina. Già è bello. Io in inverno qualche volta già ci andavo al mare. Tutto lungomare, poi mi ne andassi a ballare, lì al bar. Non va bene, sono Puglia. A Puglia, o se no, rientrando la sera se ne andassi a me in pizzeria, o alle Punti, o a Sassari, in città, qua, a Puglia. Giusto per cambiare, dai. Ma prima già ci andavo io con Paoletta, in giro, ero sempre in giro, a Puglia. Ma andavamo dappertutto, me. Anche alle feste dei paesi, qua intorno a Sassari, Ussi, Tisci, Proaghe, Florina, da dove facevano le sagre, capi? Prima voglia che ci andavamo in giro, è un bel puro, a Sentino, Andazia, ma Palmado, da dove c'erano feste? Certo, tanto ogni tanto già è bello cambiare. Ma prima non c'avevo neanche tutti i malanni che c'ho adesso, poi guidavo io, capito? Anche se non ci venivano le mie figlie, se ne andate a rimanere con il gioio. Noi andavamo lo stesso, come la cognata o i miei nipoti, sempre in compagnia, no? Per non andare a Zula. Certo. E al mare lo stesso, andate a Medunia, Gheta, Dunia, Gheta. E molte volte se il sabato non c'avevo lavoretti da farmi, si chiama Buru da Ruvenna la sera, avvistamento la domenica sera, quando non facevo il campeggio. Capito? Si arrivavo la tenda, si dormiamo in tenda, chi si due di a voglia. No, lì già ci sta bene, io sono andato da in varie parti, lì sto bene, siamo vicini, ma chi se ne frega di andare lì a sentire, pagarsi 20 euro di parcheggio per tutta la lì, ma c'è lì c'è il parcheggio gratis, si sta bene, cosa male, vabbè, cioè ogni tanto l'acqua si fa giallina, ma comunque non, cioè, io mi trovo bene, dai, non posso lamentare. Sono andato ad Alghero pure, lei è fredda, no, non la fa per me. Alghero è bello, sì, però l'acqua è troppo fredda. Beh, ma era aperto lì. Ma noi ci trovavamo benissimo. E adesso ne rientro. Aspetta che me ne entro quei pannellini solari che li avevo messi sulla ringhiera a prendere il sole. Che avanza, accendini. Sì, io. Aspetta. E bello. E lu, ma si accendono questi così. E ogni luce, da cieca, bianca. C'ha 48 letti, c'ha. Quasi ogni luce, poi è col sensore, no? Quando passo si accende, invece di accendere le luci, quando passi si accende rimane un 5 minuti, là. Poi si spegne, poi ripassa e si torna a accendere. Molto costa? No, questi c'era l'offerta per quella settimana, se gli ho pagati 31 euro, se mi sono arrivati in 3D. Adesso ne devo prendere uno grande, con la prolunga il pannello, lo lascio fuori appeso, cioè la prolunga 5 metri e lo metto in salone. Quello c'ha 60 letti, invece di accendere un lampadario che fa sui lampadini, quando entri si accende isso. Lo puoi mettere all'ascensore oppure come lampioni, quando c'è buio si accende e rimane acceso da solo fino all'alba. Il pannello lo puoi lasciare fuori, tanto c'è la prolunga, e poi se vuoi lo accendi tu, c'è un interruttore, ci sono tre modi di accensione, se vuoi lo accendi tu e lo spegni tu, se no lo lasci al sensore o se no lo metti come lampione, quando fa buio si accende. Allora Luca ne ha un bel, Luca non è trattenne più luce di casa sua. C'ha questi pannelli così, c'ha. E non sta più adoperando corrente. Non sta più operando. Lampadino sta accendendo, è diverso. Tutte le lampadine sta accendendo. E anche una TV ti puoi guardare. Perché lui ci ha ordinato quell'affare di fare a 12 volts. E la mette a 12 volts, mi sembra. Come le lampadine della macchina, là. Se avrà comprato l'inverter. Così mi ha detto, stava aspettando anche le lampadine perché si è infilato due fili in tutto l'impianto e nella placca ha messo un interruttore a parte, a 12 volt. Invece usare l'elettrico usa questo. Non è male l'idea. È un sacco di dinari farmi, e a me, chi tu mi dici la giubbagata, tu sei tu ero di luce, mi arrivi. Che allora? Io che sembro un bambino, poi sono tutti bambini, la luce se la fanno, sognati, burri consalati. Lo so, anche la Maria è già arrivata la luce, siamo in tre. E lo scaldabagno è sempre azzissimo, dunque lo scaldabagno tirami, poi c'ho il frigorifero grande, il pozzetto, poi quando trattano la biatra, quando trattano il forno, mi sono cose che consumano, poi io c'ho anche il forno che è a ventola ma è sempre elettrico, capi? L'accendi in cucina, il piatto cottura è elettrico, c'è l'accendino, schiacci e si accende da solo. È tutta elettrica. Ho capito, certo, consumo c'è. Il consumo c'è, sì, chiaro, grigio. E poi anche la spirapolvere che c'ho, quel bidone grande, chissà se c'ho un bimbo. Pare così, è bella, comoda, però corrente ne assorbe. Io lo so, grazie. Cioè, tutti gli elettrodomestici alla fine consumano, dal frullastino a tutto, tutto, consumo a tutto. Ma mi sa che me lo compro di quei faretti, non mi serve, ma... quelle lampadine a basso consumo, secondo me, sono una cavolata, perché consumano lo stesso. Oh, e non ce l'ho io che ti abbasso il consumo, eppure la corrente la consumerò ma stesso, cosa la capisci, ma secondo me sono barzellette. per dire, il frigorifero è classe A più, come te, consumo energetico, basso consumo, aragosa. E c'ho anche nel frigo, c'ho sopra frigo e sotto pozzetto a cazzo. E poi c'ho il pozzetto separato anche, dietro in veranda. E chi c'è sempre attaccato? Beh certo, consumo, cioè, quanti siete perché in casa? In quattro? In quattro? Uno più di noi, alla fine. Vabbè, io no, sì, il consumo lo faccio, non è che non lo faccio, ma... potremmo farmi una doccia un attimo. Luzi, cosa mi prego? Poco e nulla. Ma non è che la sprechi tu, è lo scaldabagno che spreca. Ti fa la doccia, poi ti fai veloce. E si dovrà sedere lo scaldabagno, a caldi in leva, no? Non è che... già consumo i puliti, ti pare così, però... qui, quando io mi faccio la doccia, e lo scaldabagno è... è a 80 per dire. Poi guardo ed è a 60 e sa di ore e ore sempre lampeggiando torna a carregare, no? I caldini. Forse scendere magari entra a bauletta si fa la luce a bauletta. A voi viene il mio figlio da travagliare e si fa la luce. Ed è sempre carregare. Eh beh, normale. E lo scaldabagno che ho preso è a basso consumo, è tutto elettronico questo, non è come quelli di prima, capito? C'ha una scheda e funziona tutto elettronico, ma tu che consuma di meno, ma mi sai come installarsi. Noi abbiamo quello, sia qua che da Maria che a casa. L'avvocato 2,40 euro mi ha preso a piazzarmela, chissà voi che hanno deciso da ripidare, e l'ho preso a saldo, ma a piazzarmi. E non c'è mai nessuno, ve lo piazzo io, grazie. Pure io me li piazzo sempre io, però la volta se facciate un brutto quando sono vicino da ripilare e non ve la vaziglia. La giudizio di Vinia me lo piazzava, ma se sì, all'Aristo io lo compro sempre, a prendere. E giusto, mi ne ha regato e me l'ha piazzato, così come l'ultimo appunto. Ma mi ha messo scalabagno nuovo, flessibile, rubinetti. Tutto lui, visto come lui, ma l'ha pigliato con due mani, l'ha alzato, ne ha messo di bizzino, ne va via lui, si me. Vabbè. Noi ce la facciamo manissimo, finché ce la faccio, lo faccio io. Quando non ce la faccio più, allora si chiama. Ma grazie a Dio ci abbiamo la forza ancora. Ma io non ce la facevo. Oggi ho provato a attaccare il bruchito, viaggio via, l'avevo già svoltato. Poi ha detto la capisci e allora la città scoppia e piazzamelo tu, dimmi che tu ti devo là tutto e giusto mi l'ha piazzato, ma intanto sto che andare a Maglia, che da sto che a Maglia fa. Ah beh certo, te l'ha portato piazzato, va bene, a voglia. Me l'ha portato e me l'ha piazzato, ma... Se credo ci ha messo 5 minuti a piazzarmelo, io già me lo piazzo lo stesso, non in 5 minuti ma in 10 minuti già me lo piazzo, però a accendermelo, mi pesava troppo, ci ho provato, ha detto no, no, la giocata di razza di ripidare, e allora poi il giorno ero ben debole, ne ricendi da ripidare, quello mi muriva attaccando lo scalabato. Ma di tavolo già a me lo posso piazzare. Beh, l'hai fatto bene. È fatto più che bene. Certo, se uno non ce la fa, è inutile che poi ci prova, poi fa cosa, fa 50 euro, ricchia, ah, meglio che paghi e te lo fa piazzare. Poi mi intendiamo per te, poi, se voi non riuscite a ripilare, adesso se mi metto già nello levo e già me lo piazzo, non è che... Ma quando sono riuscito a ripilare, ero un cadavere, cosa... non ce la faccio io. E me l'ho fatto piazzare allora, fino a... tanto per di un'anda ne torna. E infatti. Quando una cosa non ce la faccio io diciamo bravo te fammelo giù anche non per la voce anche per mollarmi la boccia dell'autoclave non mi sentivo bene ho provato il raddoppio di la palla dice ma vaffanculo che a me lo faccio e va ha giù telefonato dice amico mio Edral che è giusto 5 minuti va pure 20 euro dammi 20 euro te 20 euro ciao grazie tutto va. Così sì, perché prima Marina non pagava, per ogni cosa pagava. Grande 15, grande 20, grande 30, grande 40. La volta del frigo quello là, è venuto, guarda, ci ha messo sì o no, fai 5 minuti, più o meno, ci fallo 10, dai, ma neanche ce li ha messi 10. L'ha cambiato il termostato e gli ha chiesto 40 euro. E dopo non so quanto, mezz'ora si è di nuovo bloccato. Allora cosa ho fatto? Ho dato poi colpa al motore, è ripartito e poi si è di nuovo bloccato. Poi alla fine si è rotto la scatola e l'ha buttato e se l'ha preso nuovo. Vuol dire la difficoltà. Beh. No, ma io quando ci ho cacciato a me ne buda, chi durgiami o è fanno cosa o passa a bittaglio, ma vi la voce. E a me non me l'ha fottuta, non c'è mai nessuno, pago e me lo posso fare, se no per la voce. E se no io me la posso rasura, come te posso sempre. Ma però quando non me la sento, non me la sento. Ma se non me la fai, non me la fai inutile, perché io se magari sono mal di schiena in modo a fare le cose, ma assolutamente no. E già lo credo, e allora, anche Marcus, no. Non esiste. Allora oggi che io ci so, faccio un dolore a sinistra, al fianco sinistro, deve essere un rene, boh. Ma fisso mi dà la mano, senza far nulla, boh. Aspetta, inizia una bella giornata, là. E infatti oggi ha detto, mi piace questa mensola, oh, io, ha detto la capisci, me la piace la strada, c'è una roba urgente, ma... E anche io ne ho una da piazzare in cameretta, così mi metto il saldatore sopra e ho la, come si chiama, ho la scrivania libera, ecco, e lavoro meglio. Ah, io quella scrivania la faccio fuori, me la levo dal salone, però nel ripostiglio non ci sta, è troppo larga. E allora la città paletta gli metto una mensola che c'ho in garage, che ce l'avevo in salone prima, un paio di anni fa, siccome è nuova, è bella, l'avevo fatta io. Me ne salgo quella e me la attacco nel ripostiglio e sopra lì ci metto i baracchini, una me l'ho già piazzata. E infatti c'è lo Zodiac lì. E l'altra me la metto al fianco che, in modo che lascio lo spazio anche per passare per aprire quel mobiletto che c'è. Perché se ci infilo già ci sta quella scrivania, però non mi apro lì nel cassetto del mobiletto e nello sportello. Beh certo. No, io lo sto facendo perché mi serve la scrivania libera, perché c'è tutti... Sto usando sai che cosa, qui così, dove porti le quelle portastecchette per misurare la glicemia. E ci ho messo le viti, tutte le viti del telefonini, tutte le viti che recupero, tutti i pezzi, connettori di ricarica di telefono, tutto, grazie a tutto. E ce l'ho tutti lì sopra, adesso appena è, metto le macchinette sopra, questa mensolina, che me l'hanno regalata e... Ma non c'è più spazio. Ma quegli assucci bianchi stai dicendo delle strisce. No, io si dirà, me ne tengo sempre uno o due così in caso che mi serve a mettere qualche cosa. Ma se no le vicine conviene, tagli una bottiglietta di quelle piccole, un pezzo ce lo butto dentro lì, perché poi se la cerco, invece di inviarlo giù il barattolino, guardo attraverso la bottiglia che è trasparente e vedo se c'è, capito quella che sto cercando. Oppure nei barattoli di marmellata di vetro, le levo l'etichetta, lo lavo e ci metto le viti dentro, così vedo se lo vedo se c'è la vite sto cercando. Ok, vabbè, lo devo corrigere perché è chiaro, capito? No, forse mi devono dare un televisore che gli ho detto a non buttarlo, 32 pollici, schermo piatto. Ma tu non ce lo buttare che lo do a un amico mio, che lui gli aggiusta, magari se non fa aggiustare si ne dirà che pizzo che gli si va a custare un altro televisore. Mi deve dare la risposta se non ce l'ha buttato, già me lo dà. E per dar la tela. Grazie, se non riesco a sistemarlo ne stacco i led, capito, le schede, mi recupero i condensatori. Infatti io ho pensato a quello, al limite lo controlla, se è capace di rubare la cozza, di raccolta se lo vedi, se no al limite se ne tirerà qualche pezzo laggiù di tu, o a Ghito se lo devi lampare, metti non se ne abbia lampata qui, ma non mi ha dato la risposta ancora. Se me lo porta già te lo dico, vieni e te lo prendi. E qualche cosa lo usi, tu ne tiri, ne stacchi i pezzi che ti servono se non fa aggiustare. E davvero un ricco se lo lampi. Io ce ne sono pezzi buoni, tipo l'LCD si può staccare, si può recuperare i LED, le schede di alimentazione. Bisogna vedere che problema ha. No, stava guardando la TV ed è mancato tutto di colpo un quadro. L'ha studiato il ragazzo lì e non ha acceso più la tetta. Informati, me lo fai sapere, venga me lo prendo. Già me l'ha dato la risposta. Se non me la dà quando lo sento glielo chiedo io, vedi. Ma penso che me la dia la risposta. La gente ma il filo guardatela, sì, è la tucca è sempre vivi, la segnali ti davo con delle comandi. E dice, se non ce lo buttare, me lo dai, me lo do un amico mio la gente. Se me lo dà già te lo dico, te lo dico e te lo guardi tu. Qualche parente tuo? No, la nonna di Meienna, lui. La nonna. Infatti dice che se la compara di lui. Vabbè, non c'è problema, già sono qua. Poi nel caso, se la farà se le passiamo lo prendo, se non ce l'ha buttato. L'altro giorno ce n'era uno lì. Ma molte volte si buttano le televisioni per cazzate, grazie a... Che gente male non lo vuole riparare perché sa che dal tecnico si paga un bel, spendono un bel. E c'era un... Marina me l'ha detto, l'ha visto lì, nuovo, un... a schermo piatto. Quelle sottomarca, adesso non mi ricordo, United mi pare. Mica io un paio di anni fa ne ho preso uno dal cassonetto, da di qua a me. E l'ha già attaccato e funzionava, ha detto che ci sono marchi, si dà per la televisione, si funziona. E funzionava, non ce l'avevo sceso in campagna. Vabbè, cioè quelli che mi danno, come capita che lo trovo, sì, bisogna ripararli, componenti oppure i led. Vabbè, ma c'è una strozzata, conviene ripararlo e poi te lo vendi, non ha alcun prezzo, se non te lo tieni giù, o no? Fai che ci sia una spesa di 5-10 euro. Cazzo, uno compra il pezzo, glielo sostituisce e la TV funziona, o no? E magari ce ne buono 80 euro, ma di... Allora, uno che mi hanno regalato, cioè me l'hanno dato per controllare, gli ho detto, ci vuole la scheda, ma no, ci vuole tot, no, tienitelo, e me l'ho comprato la scheda, con 70 euro l'ho riparato, 70-80 se non mi ricordo, ed è un bombo, è al plasma, un Panasonic, funziona benissimo, 42 pollici, Nuovo, fiammante. E io le tengo bene le cose, non è che le tengo ogni tanto, una spolverata, sia davanti che dietro, lo tengo bene, siccome avevo deciso di venderlo, però non so manco quanto si può vendere per comprarmi una smart TV. Sì, guardi, cosa viene a costare nuovo? O puoi guardare anche sul telefonino, su internet, e tu fai un prezzo e lo metti, un prezzo che lo vendi, da chi la gente, lo sai come te dicono, sempre un televisore a seconda mano, lo è usato, non hai compreso, la gente pensa così. Fa dall'altro e me lo vedo lungo, fa di a giugno 10, 20 euro, se lo metti troppo non lo vendi, capito? L'importante è che uno se ne leva le spese che ci ha messo per ripararlo, capito? Allora sì. Ma molte volte succede che non ne vale la candela. Ma comunque io recupero i LED, ho voglia. Capita che mai un televisore che c'ha quei LED lì, mi sostituiscono la stecca dei LED e riprende a funzionare. Il mio principale c'aveva il laboratorio perché faceva il radiotecnico. E lo faceva così, è di una cuglia tutta la roba vecchia. Si bucava un pezzo da Ghiddu, si rappava Ghiddu quando non aveva tirato il pezzo, lui si via e ne accusava un altro. E da qui per un passava pa pezzo nuovo a chi ci veniva a ritirarsi, a compreso, poi c'era il pezzo vecchio. Sì, va di sì, ma ci buttano le cose nuove, grazie. Io conosco uno che si ripara e si li rivende. Lo so, ma la gente oggi no. Preferì la pazzina e andare a comprarsi di nuovo, a chi dice ma che su che costa non ne vale la pena la consola, ma gente la pensa così, è come i calzolai, guarda tu calzolai, se ricordi mi saranno i tre in Sassari, in tutto, sono andati in fallimento a chi botti non la costa più nessuno, se di lampa andasse i migliani lunghi. Anzi, da Reginese ti hai migliato le voti, curirà da cosa, chi ti hai migliato un paio di voti lui, hai compreso come ti fai la gente. Mi sono io, castoraggio mio, se dunque sono quattro. Ma tu non hai così più voti, ti hai migliato un maschietto, è la forma. Ehi, la forma, sono informato. Ciao Graziano, buonasera anche a Luca. Non so se sono altri in ascolto, ma chi ci vi saluta, avanti. Ehi, ciao Bacchi, buonasera anche a te, salutoni. No, non c'è altro nessuno. Ciao Bacchi, ci ho ben sentito. Graziano, viene scucciato. Poca gente stasera, pochi introiti. A chi ha le fredda fedi, vero Luca? La vanibbe di freddi. Bisogna fargli un bug ai enti. Ma prima Marino. Tore sarà cuccato la guccia dei bau bau. Ega, Tore. E allora? A chi vi si vale l'uretto matrimoniale che si gane? Si vale l'uretto matrimoniale, non dillo un funente, è vero, dromi l'uretto matrimoniale che gane. Allora, è un materasso ortopedico. Anche di cosa? Il materasso ortopedico mi ha fatto le schiuma. Emiflechisi, vero Lu? Dimmi tu. Emiflechisi, e allora? Flessibile proprio. Pensate, più bene te puro. E tu si cocca in mezzo e fai un bambino. E chi tu gli dà tre cose di un mosso, a culo. Vero è Tore! Sazzi, meglio di te, Sazzi! Ma 5 minuti mi posso trattenere a chi si scende subito. Capisci? Sta meglio di te. Buonasera, signor Bacchi. Vero è? Ah, sotto, buonasera, via da che ti intendi, ma non sei dormito ieri? No, sono qua in ascolto, ero, però... Ci devo uscire e andare a accompagnare mia figlia all'aeroporto. Certo, chi già non ci saluti, bu bu. Ma mi siete antipatici tutti e due. Andiamo, andiamo. Vai, mito, potete andare a Olbia. A Olbia, a Rarira. Sì, ma se volete comunque a farà. Ma va a fare un bull, mami, Tore, mi vuole 5 minuti a fare rire. A fare Olbia è un po' tosta, eh. Sì, ma io siccome ti faccio la macchina, non la devi fare in pullman. Buh, tre tinnate, come te la fai io? Ma se tu metti tu sei sotto, tata, vero bacchi? Mamma mia, ti hanno... Sì, prova. Sì, ti sento. Atto. No, io non l'ho schiacciato. Io gli ho detto a di mettersi la radio in macchina, almeno lo sentiamo. Sì, così in macchina mi arrivo, gli faccio i nocchi e buh. Sentiamo me. Sì, per domani buru. Certo. No, è così vedevamo sino a dove ci sentivamo. Ti posso portartene a fare la prova andando. Non ha giocato di sta con un coso in mano e guidendo. Ah, Lucani, lo dai a pavidà, buh, non posso andare avanti. Ma ci mette non fate venire un cane che non faccio rugo. Ah, allora davvero. Va bene, Luca, riprenditela tu. Vabbè, lascialo va, se lo fa zimbeggio, vai dottore. E allora, vabbè ragazzi, io vi lascio. Anche mi devo pulire la valigia in macchina, andate. Ci sentiamo domani, se tutto va bene. Ok, ciao a tutti, ciao da chi. Autore, ciao, saluta la signorina e la signora, a domani, se tutto va bene, fate sentire nuovamente. Avanti, grazie. Ciao autore, buona passeggiata e non correre mi, capito mia, ciao, vai Luca. Ciao antipatico, ciao. E adesso sta partendo, tra poco passa qua sopra e cosa, ci fa la pipì addosso, grazie. Io faccio una contraerea e ne rulampo, ma non sai quanto ne passano la notte qua, un bei, pure tre o quattro tutti insieme. Beh, siamo vicini all'aeroporto, dunque quando si portano in volo li vediamo, passano dal cielo, si vedono. E beh, non so che direzione prendere oggi, boh. La fine è passato uno, bacio, cosa ti posso dire, sarà stato 300 metri dal grattacielo, più in su, ma passo se mi abbezzo l'aereo, non è poco ci vediamo. L'aereo di linea magari stava facendo il giro, stava abbassandosi per arrivare all'aeroporto, perché quando tu lo vedi fanno le abbassine, così quando è all'altezza di Porto Torre sei ancora più basso. Cioè, fino ad arrivare a terra. Già li vedo, già la notte si vedono ben bene, perché fanno il curvone verso guardando verso Stintino, no? Arrivano a un certo punto e cominciano a fare un curvone, ma un curvone enorme, mi. Si mettono in linea e poi atterrano a Fertilia. E tu non l'hai mai visto, Luca, là lì? No. Però l'abbiamo visto basso, vabbè lì avevamo ad Alghero, ma basso però. Stavano ad atterrare, ora abbiamo proprio andato la cappotta. Ma anche qua certi giorni ne passano un bel bassimi. Pari di bimbao, sopra un grattacielo, dico, là, però a occhio e croce saranno un altro buone 300 metri più in alto dal grattacielo. 300-400 metri, però lo vedi, bruni a mezzo d'aereo. Sì, anche gli elicotteri passano bassi. A volte sono andato a accompagnare la Mariana ad Alghero, era a Olbia anzi, era giù un poco di elicotteri nel Turrene, ma proprio lì, vabbè, lì l'aeroporto. Elicotteri, poi partivano, gli aerei partivano ogni minuto. Il Canadair pure ho visto. Anche io ne ho visto parecchi. Anche dove ho fatto il militare lì a Ferrasevu. C'era Langa. Vado ad aprire che hanno suonato, ripiglia Bacchi. Ehi, vai a aprire. Buttalo fuori, lo fa entrare. Così vedrai che non ti disturba. Pronti. Vediamo se c'è Marino in ascolto. Marino. Buonasera Bacchisio. Ciao Luca, anche se non ti ascolto, grazie, è andata qui la porta, poi non so chi c'è. Avanti Bacchisio. Ehi, ehi, ciao Marino, buona serata. Però sei uscita a singhiozzi, perché? Perché c'ho un po' di mal di gola. E adesso? Marino. Ascolti. Come, Luca, l'ha sentito tu a Marino? Sì, sì, io sì, lo sento. Avanti Marino. No, io a Luca negativo non ascolto, Bacchi, non ascolto, è boh, strano, giorno ne ascolto oggi, proprio, boh, neanche a lei ti si accende, figurati, avanti Bacchi. Marisso, attento Marino. A me mi sembra Marino problemi d'antenna. Tu mi senti Bacchi? Io mi sono Marino. Non sento niente adesso, c'era un po' problema. Ringraziamo per ascoltarti, adesso ho visto il led che si è acceso, eh. Avanti. Mi senti Marino? Ma c'è molto qua RM Luca adesso, Ma io ti ascolto benissimo, eh. Ma tu ti porti via un bel qua RM che ti portano appresso. Se vuoi ti dica, purtroppo ti devo accontentare. Adesso sei sto abbastanza forte adesso. Ti ascolto benissimo, ma chi se non ti sente? Ma chi lo senti a Marino? Qualche parola ogni tanto, hai sentito solo una parola, non capito cosa ha detto. Avanti Marino. È strano, io ti ascolto bene, a Luca è arrivato tutto bello sparato. Strano, avanti, ma chi? Non ti sento, noi mi sono dovuto spostare un po', eh. È strano, eh. Boh, io sono a posto qua, non so perché. Vediamo se Graziano mi ascolta, Graziano, avanti. Luca, niente, zero. E sono con la verticale. Con l'antenna bianca verticale. Non lo sento. Boh, mi sembra un po' strano, ma chi mi sembra, Ma io lo ascolto benissimo, arriva abbastanza bene, quando arrivi tu arriva lui, eh. Aspetta che abbia antenna a vedere. Privati Luca, io ogni tanto sento qualcuno che deve essere stato facendo le gare, quelli del fuoristrada, di Ittiri, che stanno correndo, ogni tanto sento qualcosa, sento. Ah, io non sento nessuno. Poc'anzi sentivo ogni tanto, era splatter, non lo so. E beh, ma chi è in terra sta cambiando? E adesso Luca, poi mi ascolti. Ti ascolto benissimo, ti ascoltavo benissimo anche prima. Ti ascolta Marino, guarda, prova a chiamarlo. Sento Marino, mi ascolti? Certo, ti ascolto, avanti, Bacchisio, tu mi ascolti. Bacchisio. Sta chiamando Bacchisio. Attento, Bacchisio. Marino, mi ascolti? Sì, che ti ascolto, avanti, Bacchi. Ehi! Graziano, ascoltami, sì. Se tu non lo senti, vediamo un po' che... Attento, Graziano, cambio. Roba, non c'ero che stavo facendo l'infermiera, sono andato a fare l'insulina alla zia di Paoletta. Graziano, buonasera. Ciao Marino, ben sentito. Sì che ti lo sento io, Luca. Marino lo sento bene bene. Chi è che lo sente male? Ma chi se non mi ascolta, mi ha detto. E chi? Chi è che non ti ascolta? Ma chi se non lo senti a Marino? No, zero, riporto zero. Proprio zero. Io lo sento benissimo adesso a lui. Io qua lo sento benissimo. Ti sta arrivando bene, Luca, a te bene arriva. Io ascolto benissimo lo stesso. Bacchi, allora dipende da te, boh, ieri lo sentivi. Sì, anche adesso mi sembra di aver sentito, Marino. Avanti, Bacchi, mi ascolti adesso. Sento, Bacchisio. Sento, Bacchisio. Non l'hai sentito. Perché la luce dello smitter si accende, nulla, zero, riporto zero. Marino, e tu lo senti? Sì che lo sento. Lui ti sente, mi Bacchi, strano. Si è sentito, sento, e basta da Marino. Marino! Allora io ti sento, mi Bacchi. Ti sento bene, Bacchisio. Ma stiamo trovando sta? No, non ti sente. Ma non è colpa mia, scusa, Non è colpa mia, boh, ci avrà qualche problema. Io sto scendo regolare, normale, come sempre. Ma chi lui ti sente, tu non lo senti? Boh, lui è normale, come sempre. E io sono normale come può, ho sentito adesso un passaggio e poi boh. Marino, mi senti? Sì che ti sento, prova a utilizzare il portatilino, ma chi? Ma col portatile stai uscendo, ma chi? Mia, ma sotto antenna però. Quello che uso in macchina, lo sto usando qua. Ma con l'antenna esterna o interna? Pacchi! L'antenna esterna sicuramente. No, sta usando quello che usa in macchina, ha detto. Il gemello che ho io, dai, il gemello che uso anch'io in macchina, che va benissimo lui, va abbastanza bene. Ascoltato, avanti. Siamo sulla modulata, i bacchi mi ascolti adesso. Adesso ti ascolto, poco fa non ti ascoltavo, adesso ti ascolto, avanti. Ma sei sempre sotto antenna, sì. Acchisio, grazie, è sparito, non sento più. Sta chiamando Bacchi, mi sa che non lo senti, Non lo sento proprio, nulla, nada, de nada, no. Sto pensando che sia questo raccolto che mi stia dando da fare. Sto pensando a quello lì. E prova il raccolto, Bacchi. Rem, non è che sta arrivando bene. Sì, ti ascolto bene, però hai un rumore sotto, non sei pulito pulito. Cambia antenna, vediamo un po' come smette la bianca. Dovresti arrivare pulito, senza rumore di fondo, va. Grazie, modo un attimo. Graziano. Dimmi. Grazia. Dimmi. Cazzo di modulare, mi Marino. Ehi, ami senti a me. Marino. Sei fai. Marino. Di Luca. Mari. Luca. Non lo senti a Graziano. Sì che lo sento a Graziano, abbastanza forte. Grazia. Dimmi, già ti sento. Bacchisio sta controllando il raccordino, dai, forse il raccordino non fa contatto. Bene, avanti, signor Luca, non sei uscito ancora, no? Luca! Eia! Grazie, modulando stanno? No, non sta modulando nessuno. Aggiungi il tuo basso senza stampa, me, Bacchi, a ci sei? Sempre qua sono io, avanti Marino. Prova in questo passaggio, se ne ascolti, Bacchisio, uno, due, tre, prova. Guarda se mi ascolti adesso, con l'antenna bianca sono. E ti ascolto forte anche, va benissimo, pulito, pulito. Bacchisio, mi ascolti? Sento, Bacchisio. E io ti ascolto, Marì. Mi ascolti, sì. Luca. Eia, grazie. Vai, Parigi, Bacchisio e Marino. Sarebbe la compresa è buona. Vale, sono qua io, grazie. Sto aspettando Bacchisio che chiami. Bacchisio, caduto, sì. Eia, sto provando un'altra antenna. Aspetta un attimino. Sta provando un'altra antenna. Aspetta. Capito mi hai. No, poco fa mi sono assentato, Luca, e mi ha chiamato la zia di mia moglie a fare l'insulina. A chi ho fatto burro l'infermiere? Sì, non lo faccio tutto, ho fatto burro a mamma. E allora, la giurita a fine mese 100 euro. A me mamma a fine mese mi dà 1000. Sì, ma con tanti zeri. Cosa? 1000 con un di zeri. Con 3. No, a me la farima da 2. 2 con 3 giri. Oh, buono. E allora? Mi baga ogni mese. A chi è la baga del 27? È un travaglio a nero quello. Lui. Eia. Cosa stai facendo? Sono sul gruppo approvando i post. Ah, no, oggi non è acceso. Poche nuda al telefonino. Vabbè, stava caricando. Ah, sento Marino. Ascolti, ma chi adesso? Adesso sì che ti ascolto. E beh, cosa c'era? Buonasera, mi hai scocciato. Sono con l'antenna che hai visto tu. E dunque già va bene, dai. Ti ascolto abbastanza bene, bella pulita, modulazione chiara. Eia, solo c'è un problema col microfono. Non ci vuole rimanere incassato, né sa camera, né sa canirucci. Non mi chiede quello da un razzo. non fa, da voi passa qualcuno e soffrende. Grazie, cosa mi consigli? Tu buttarlo dal terrazzo? Buttaci tutto, compratelo nuovo, tutto nuovo, oramai non servi più chissà cosa. Compra nuovo con quello che costa lui, una cazzata. Almeno non c'è problemi di antenna, diciamo, accusa microfono. E allora beh, batto l'antenna e non funziona il microfono. A cosa il microfono e non funziona l'UBL, LL. Sempre che malasucci, la pazzina e pigliatene uno nuovo. Vendi qualche cavolazione in più, assai vivo, vero lui? Questo è nuovo, graziami, questo è nuovo, questo ha pochi giorni di vita. Se lo vuoi te lo vendo, lo metto dentro la scatola e te lo vendo. No, no, così la cappa che ti l'ha venduta, che si è difettoso così, antenna, microfono, buona legge di passi. Guarda, questo qui l'ho trovato dentro l'uovo di Pasqua io. Vedi, è l'uovo di Pasqua, non era Kinder, era di chi senza marca. E vedi che la fregatura c'è, a parte che il cioccolato non c'ha sapore. E l'oggetto, la sorpresa è di 13. Tu hai più fortunato, no? Il Kinder, grazie. Io invece con 260 euro me l'ho preso l'uovo, l'uovo Kinder, e ho trovato l'apparecchio buono, sempre della Kinder. Dimmi dove hai comprato questo Kinder, dove vado anch'io. Quello l'ho ordinato dal negozio vicino a Napoli, non mi ricordo che città è quella. No, l'uovo Kinder volevo dirti, dove l'hai comprato? Ah sì, chi va? No, la continente tramite internet. È arrivato con un camion mano. Anda avanti Luca. Ehi. E allora, che si dice? Domani a riposo, sì, Marino. Ma non mi intendi più. Marino! Non l'ascolta Luca Bannuta proprio, eh. Come non lo ascolti? Non ti ha sentito Luca. Comunque ti ha chiesto domani al lavoro. No, domani riposiamo, caspita, ho fatto anche il 25, ho lavorato, anche Pasquetta, domani riposiamo. Hai sentito? Sì, vabbè, a riposo domani. Già ci vuole il riposino, là, avanza domani a riposo, già andave, già vivù. Riprendi i bacchi. No, domani lo porto in campagna, lo faccio lavorare a Marino. Me lo porto in campagna a lavorare. Marino, ci vieni a lavorare domani in campagna. Guarda, tu c'è la roba da fare qua io. Sia fuori e sia qua dove sono giunto, mi devo cambiare tutti i rubinetti devo cambiare, devo mettere tutti i rubinettini flessibili. E non aggiungare, ho tutta la chiave pronta, adesso vediamo. Se ne ho voglia, la mattina mi metto, chiudo l'acqua e mi cambio tutto quello che devo cambiare, se no, cioè è un caos. Avanti. Ehi, fai il lavoro allora, fai l'idraulico domani. Se no ti porti a Graziano per dirigere i lavori. Non è male l'idea, no. E mi invece, avanti, che metti Sarri la radio, ti poni la lampadina in fronte. E cominci da avanti a bar rubinetti, chiudi l'acqua, che tanto gli altri dormono, dunque la puoi chiudere tranquillamente e lavori tutta la notte fino a domani mattina. A voglia già bar rubinetti flessibili, vero Luca? Capito, approfittane adesso la notte così non disturbi a nessuno con l'acqua. Che domani lei va a ricevere a tua moglie a cucinare, a lavare, a fare. Io mi chiudo solo la centralina, grazie. Questo è un appartamento di sotto, dove c'è la stazione. Qui è un altro appartamento. Un appartamento completo, diciamo. E c'ho la centralina, capito? Mi chiudo la centralina e faccio quello che devo fare. E l'acqua sua arriva lo stesso, non mi è venuta, ho preso. Vabbè, ma per non perdere tempo allora, ne approfitti la notte invece di dormire. Fai, a dormire già si dorme dopo quando andiamo. No, stanotte voglio fare Volpino. Ah, di che vuoi fare il birbantello stanotte, hai capito? Ma chi? Luca, il teso hai? Marino, con un bebè, cosa li pensi, Bacchi? Senza fretta però, grazie a dirgli, non avere fretta, piano piano. Un po' oggi, un po' domani, dai, non ce n'è fretta. Ma lo fa come ti fa dire i bisogni, un colpo e vola. No, io non mi metto fretta, grazie, non mi metto fretta, piano piano, mi dai tempo. E va come te lo do scuro, un lemme lemme se prandegni, vero Lu? Lu? Diglielo tu, Bacchi, che tu sei intenditore. No, grazie, non sono intenditore io, no. Io sono campagnolo, non so niente. In campagna vivo. Lu bruco, non andiamo piano piano. Infatti, bruco andiamo piano piano, bruco. Sì, quello sì. Va piano il bruco, non c'è prima niente. Mi sposto 2 minuti, sto arrivando subito. Cammina piano, piano della tartaruga, strana la vita, vero Lu? Lu? Ma ti immaginerci se fai mille vedi, Luca? Allora? Cammini piano degli altri. Non bisogna contabili, però se vedi fa mille vedi. Così dicono che lo bruco va a mille piedi. Mille volte va pure allora. Infatti va a ricchio i negozi di botti. Mille piedi vuole mille volte, Africa. Marino, così è. Ma chi? Ma sotto terra sì, sei un bel basso, agatto da conto io. Esce questo microfono graziale, mi ha rompito. Adesso sei uscito, già si sente adesso. Ma allora hai fatto andenne e farenni. Se muovi la mano ne esce un filo dalla cosa, dal microfono, ne esce pure. Non so come cosa, casino se l'ha pigliato la Marasotti. Buona notte, De Bassi. Riprendi, ma Mari. Marino. Mare stiamo andando. A Trappoli stiamo andando. Bene signori, io vi devo lasciare, è arrivata l'ora del merendero. Ciao Graziano, buona serata, grazie per 4 chiacchiere, a domani, se coincide, saluta la signora. Ciao Marino, salutissimo anche per te, saluta in casa e a domani. E così anche per Luca, ciao Luca, buona serata ancora. La Chiesa vi saluta e ascolta il finalino e chiude. Avanti Luca. Ciao Bacchi, dai, salutoni, buona cena. Non è tratto. Se Dio vuole, avanti, grazie. Ehi, anche io chiuso adesso. Ciao Bacchigio, buon proseguimento di serata, domani se coincide. Ciao Luca, chiudo anche io, ciao Marino e ciao chi è in ascolto. A domani, vai Lu. Luca. Ehi, da grazie, da anche a te. Anch'io chiudo perché vado a cenare. Ciao, a domani. Fammi sapere per quella cosa, ciao. Già ti faccio sapere, ciao. Ciao Mari. Ciao, grazie, ben sentito, saluto in casa, ci sentiamo domani, se coincide, dai. Avanti, Bacchi. Bacchisio. Ha già chiuso Mari, Bacchisio. Ciao. Ok, dai, mi sposo il canale, ciao.